19, questa è Radio Onda Rossa. Siamo in collegamento con la Francia, con chi si è recato quest'oggi verso Lione per protestare contro questo vertice che c'è stato tra Hollande e Monti. Ciao. Ciao, vi sento malissimo, quindi magari andrò a braccio, se non riesco troppo a rispondere alle domande inizio facendovi il racconto. Certo, qua la situazione è assolutamente incredibile, nel senso, noi in Val di Susa ne abbiamo viste tante, ve lo posso garantire, ma quella che abbiamo visto oggi va proprio oltre ogni limite, e quindi se i compagni di Roma sanno cosa di solito capita in Val Susa, adesso questo pullman di cui mancano 18 compagni che sono stati trattenuti, speriamo, abbiamo abbastanza notizie che forse sono riusciti a prendere altri pullman che sono partiti dopo il nostro, noi andiamo con 18 posti vuoti verso il confine con 4 agenti armati fino ai denti a bordo, che adesso cercano di tenere un profilo basso, evidentemente dopo che oggi ne hanno combinate di ogni. È successo di tutto, che è un po' difficile da spiegare, perché forse voi in Italia siete abituati alla polizia e ai carabinieri italiani che hanno delle regole di ingaggio abbastanza conosciute. Qua era assolutamente assurda come situazione, non c'erano i lacrimogeni, c'erano delle nubi di gas al peperoncino irritante che si spandevano, non facevano cariche, spintonavano, ci hanno divisi in vari gruppi. È una situazione assurda, soprattutto perché non nasce neanche da una manifestazione, perché non ce l'hanno neanche fatta fare. Dopo qualcosa come partire alle 6 e arrivare quasi alle 4 del pomeriggio in una piazza chiusa, completamente blindata dalle reti. Lione noi l'abbiamo vista come una piazza completamente chiusa, hanno fatto parcheggiare i pullman, ci hanno tenuti lì nel recinto e non abbiamo fatto niente, cioè neanche la manifestazione abbiamo potuto fare, tenendo presente comunque quella piazza era stata lasciata, tanto che comunque noi questo calvario che parte dalle 7 di stamattina al confine è dovuto principalmente a controlli di documenti lunghissimi, siamo stati scortati una volta arrivati al casello di Lione, scene senza senso perché non ci facevano andare via, hanno fatto di tutto per farci arrivare tardi, siamo comunque arrivati a questo incontro, abbiamo provato a farci due chiacchiere con i compagni francesi e poi provavamo molto semplicemente a uscire dalla piazza, né più né meno che finita la manifestazione, tutti i valsusini sui pullman, quindi non c'era assolutamente nessuna manifestazione in corso, e gli amici, i compagni francesi che cercavano di uscire dalla piazza, bloccati lì in stato assolutamente di assedio. Da quel momento si sono viste delle scene assurde, spintoni chiaramente molto poco mediatici, non escono come gli italiani, manganelli alla mano, teste aperte, però fanno male altrettanto e le situazioni sono assurde davvero. E adesso abbiamo davvero provato a ricorrere a tutti gli strumenti che avevamo, cercando di aprire contatti persino col console, che non si sa se è stato avvisato o meno, perché questa è una situazione di sequestro, non c'è alcuna notifica di reato, non abbiamo assolutamente manifestato, e per il semplice fatto di essere notav ed essere valsusini veniamo trattati come i peggiori criminali. Abbiamo un pullman dietro scortato da qualcosa, penso siano almeno 30 mezzi della gendarmerie, e all'andata ne avevamo più di 20, cioè questo per un pullman di 18 persone anzianotte, tra l'altro in buona parte, che non hanno assolutamente fatto nulla che prendere un pullman e andare neanche al vertice, che era 2 chilometri di distanza, a dire no tav. Una domanda, all'inizio hai parlato di 18 persone che non sono nel pullman, che vuol dire? Dove sono? Che cosa è successo? Allora, fondamentalmente quando c'era da partire siamo saliti tutti sui pullman. Chiaramente i compagni francesi stavano insieme ai nostri pullman e cercavano di uscire con noi, come la normale fine di un corteo quando ci si scioglie, ognuno per sé, e voilà, fine della situazione. A questo punto non facevano più passare i ragazzi francesi e sono rimasti praticamente a farsi da tappo i pullman nostri dietro. A quel punto siamo andati chiaramente a sollecitare la faccenda, a fare anche la nostra parte, perché si parte e si torna insieme, se fanno uscire noi italiani devono uscire anche i ragazzi francesi, se no stiamo tutti lì. A quel punto hanno fatto prima una manovra abbastanza tattica, hanno spostato hanno arretrato il loro fronte e praticamente hanno inglobato il pullman, respingendo i ragazzi francesi che erano dietro e poi costringendo i pullman ad uscire. Il nostro pullman, che si trovava non in colonnata in fila perché era messo di taglio, si è trovato praticamente a fare da po' di salvezza per qualcuno, che altri invece hanno deciso di scendere, e siamo trovati, hanno sequestrato l'autista, nel senso che sono saliti prendendo l'autista in malo modo e costringendolo a partire, cioè contro qualunque regola, con la portiera del pullman aperto, perché non avevano fatto in tempo a chiuderla, facendogli magari anche un discreto danno all'impianto delle porte. Col gendarme, anzi col poliziotto, diciamola tutta, che è salito e ha obbligato il pullman a spostarsi, noi ci siamo trovati fuori dalla situazione, noi che eravamo qua sul pullman, e gli altri 18 che mancavano chiaramente sono rimasti nella piazza. Da quel punto non abbiamo più avuto notizie di loro, se non telefonicamente dicendogli di salire sui pullman. Sappiamo che 3 sono saliti, ma di 18 non abbiamo la certezza di tutti quanti. Ci è stato garantito che comunque li avrebbero comunque fatti partire, e a questo punto aspettiamo di sapere la situazione dopo. Noi qua vi possiamo dare il punto di vista dal terzo pullman che cerca di ritornare in Val di Susa con 4 agenti a bordo e 35 notar sequestrati. Allucinante. Quanti pullman sono partiti questa mattina dalla valle? Una decina c'erano tutti, più altri mezzi privati che sono arrivati nei giorni prima, quindi c'era tranquillamente 600-700 persone. Senti, l'avete saputo un po' come è andato il vertice tra Hollande e Monti? Si parla insomma di questi soldi che si stanno aspettando dall'Europa, hanno rimandato il tutto, la decisione, perché fondamentalmente questo è stato, nel senso che la Francia e l'Italia possono essere d'accordo quanto vogliono, perché non ci sono i soldi li deve dare l'Europa, e hanno fatto vedere queste fantastiche immagini di questo non tunnel, di questo non insomma non so che sta, si sta di lavori che stanno proseguendo in Val di Susa. Approfittiamo di te insomma per anche un commento su quello che è stato questo incontro e su quello che sta succedendo in Val di Susa. Ho sentito giusto la prima parte sul discorso delle spese e cade a fagiolo. Tenete presente che fino a qualche tempo fa si parlava di infrastruttura, c'erano dei costi legati alla costruzione dell'infrastruttura. Invito chiunque a venire al cantiere, senza bisogno di vedersi i bilanci, vede benissimo che la guarnigione, il fortino militare che hanno costruito, farà costare 10 volte tanto qualunque progetto hanno in mente. Quindi immaginate che quei costi, che già sembrano assurdi, devono ponderarli, perché se 600 persone devono mobilitare più di 10.000 agenti di polizia francese per una manifestazione che tra l'altro non ha avuto nessuna grande velleità se non arrivare in una piazza e stare fermi, cioè. Quindi ci troviamo di fronte a dei capitolati di spese che sono senza senso. Una trivella che è arrivata in Val di Susa qualche settimana fa, lo saprete, è arrivata scortata da 100 mezzi, 100 blindati delle forze dell'ordine per 3 trivelle. Cioè ci sono delle persone che si fanno il pozzo artesiano e costa tot. Se io per fare una banalissima trivellazione in un autoporto, dove tra l'altro è da 30 anni che costruiscono ogni cosa, sanno benissimo com'è il sottosuolo lì, quindi per fare sti carotaggi farsa devono muovere 100, non 100 agenti, 100 mezzi che avranno almeno sopra una decina di agenti solo per arrivare. Quindi immaginatevi i costi che può avere. A questo punto bisognerà vedere chi li paga. Qualcuno in valle diceva, vabbè, quando ci sono state le guerre i lanzichenechi li hanno pagati con i bottini di guerra. I nostri territori, le nostre risorse, la nostra vita sarà la merce con cui verranno pagati queste, non so come chiamarle, perché non sono esseri umani, non si possono assolutamente connotare come esseri umani, che praticano questo che per loro è un lavoro. Io non riesco neanche a capire se possa essere anche chiamato un lavoro questo opprimere e militarizzare un territorio, e soprattutto situazioni di questo tipo senza senso, perché cioè, ostentavano senza problemi lanciagranate, sono stati diciamo nebulizzati, perché non c'è la fumera del lacrimogeno a cui siamo abitati, qua sono più raffinati, ne hanno fatte davvero che se questo è lo scenario che ci prospetta l'Europa per i prossimi 10 anni, invito tutti i compagni di Roma a rifletterci su, perché c'è da imparare, almeno c'è da essere preparati a quello che vedremo nei prossimi anni. Quindi prima ci prepariamo e prima riusciremo a resistere, perché l'unica cosa che possiamo fare qua è resistere con detto da un pullman dove due seggiolini davanti o due Playmobil armati fino ai denti che continuano a fare gli splendidi, e questa è la situazione.